Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Arriva il pallone in mezzo, Posavezza, vuoto Belotti, 1-1 sull'errore di Posavezza, canta ancora il gallo Belotti. Sono felice di aver fatto una tripletta oggi, era una partita molto difficile perché il Palermo è una squadra che si difendeva molto bene. Per fortuna siamo riusciti, grazie all'aiuto dei miei compagni, a fare questi 3 gol che ci hanno portato a vittoria. È un onore per me essere lì e eguagliare questi grandi campioni, però sicuramente non voglio fermarmi. Che alza un pallone morbido, Belotti, doppietta del Gallo, capocannoniere, il Gallo Belotti. Beh, diciamo che una volta che tu fai un contratto con una persona, cioè la clausola vuol dire un accordo fatto con il giocatore, per cui se arriva qualcuno che offre dall'estero, non dall'Italia, 100 milioni, se lui è d'accordo, io sono obbligato. Però diciamo che uno, deve arrivare qualcuno dall'estero che offre 100 milioni, Belotti deve essere d'accordo e vediamo. Ljajic, va dritto in porta, colpo di testa, ancora il gol del Gallo Belotti, è una tripletta che porta il Toro sul 3-1. Sì, ha fatto una gara straordinaria, ha lottato come lotta sempre lui, ha fatto assist, ha fatto 3 gol, sicuramente diciamo, è il capocannoniere per me, secondo ma penso anche molti altri in questo momento, diciamo, miglior attaccante di Serie A, ma non si deve accontentare perché ha tanti margini di miglioramento e tutto, perciò deve continuare così cercando sempre di fare quello che gli chiediamo. Io saluto il ritorno di Gianmarco Veronati, regia. Oggi, come sempre, puntata scoppiettante, pienissima di ospiti da qui alle 15.30. Grazie anche a Giorgio De Luca, il nostro autore, Edoardo Lavezzari in redazione. Pierluigi Pardo presente, poi avremo, ciao Pier. Ciao. Poi avremo il Papa del calcio italiano, le elezioni sono cominciate, servono 3/4 dei voti dell'assemblea per avere il nuovo presidente federale, conto di darvi l'esito entro questa ora e mezza, anzi ne sono abbastanza certo. Parleremo di Belotti, abbiamo già cominciato a parlare, sarà uno degli argomenti di giornata. La Juventus un po' stanchina ieri a Udine, però veniva da 38 vittorie senza assaggiare nemmeno il pareggio. Il resto delle partite sono state quelle pochissime sconfitte. Prima sono intervenuto il GR dando i numeri, più 8 della Juve, 22 di Belotti, e poi c'è questo 5 dell'Inter, questa cinquina dell'Inter a Cagliari. E Pierluigi Pardo, eccoci qua, siamo pronti. Il Tonici, il fenomeno Andrea Belotti. Beh, mi sembra insomma la perfetta, è nella fase della maturazione, quella proprio completa, dell'esplosione, quella completa. Mi sembra una grande notizia non solo per il Torino e per Cairo, ma per tutto il calcio italiano, veramente una compiutezza tecnica. È centravanti della nostra nazionale, eh? Ventura se l'è allevato e adesso se lo ritrova nel pollaio. No, è un'ottima notizia, è banale dirlo, è un attaccante che ha un livello adesso mondiale e che magari se continuerà così, e penso che continuerà così, possa farvi evitare dal punto di vista tecnico la nostra nazionale, cioè un giocatore che adesso senza mettergli grande pressione addosso può rendere la nostra nazionale qualcosa di diverso da quello che in qualche modo si è pensato in tutto questo periodo, no? Sembrava un po' un momento di oscurantismo, di ricostruzione, Belotti era un pezzo di questa ricostruzione, è chiaro che un giocatore così un altro gioca a Parigi, altri ce li abbiamo, in giro. Io oggi non riesco a essere pessimista, che ci fanno sperare bene. 800 24 00 24, perché ogni giorno siete grandi protagonisti anche voi con la vostra voce. Do un altro numero che è 100. Abbiamo sentito prima Cairo parlare, sappiamo di questa clausola compromissoria che vale per l'estero. Bisogna vedere se, dice Cairo, dall'estero arriva qualcuno con 100 milioni in bocca o nella valigia. Secondo me potrebbe anche arrivare. Potrebbe arrivare, sì. Infatti c'è anche il fatto che forse 150 era la cifra giusta. Beh, insomma, sì, non siamo così lontani. Non siamo lontani. Considerata l'età del ragazzo, considerato il talento, considerato quanto è prolifico... è un'offerta, cioè è un prezzo alto, poi vedi, ma non è un prezzo così irreale, così folle, irreale. Esatto. Poi vedi centravanti italiani adesso in Inghilterra vanno molto di moda. Gabbiadini ha segnato ancora, non la smette più, e ha fallito soltanto Zaza, e insomma dall'Inghilterra qualcosa potrebbe arrivare. Prima di fermarci per il traffico, Pierluigi, giornata condizionata dalla overture, direi, quella di Roma. Che cosa? Ah, di Roma-Napoli? Sì, giornata condizionata da quello. Forse sono io che sono invecchiato e bollito. No, beh, sicuramente condizionata da quel risultato lì. Io sono tra quelli che pensa, anche se Allegri dice che se fosse così sarebbe gravissimo, che un po' dell'approccio morbido e pigro che la Juve ha avuto ieri a Udine fosse dovuto anche al fatto che la Roma ha vinto contro il Napoli. Secondo me ha ragione. Sarà anche pessimista, ma ha ragione. Sarebbe anche questo è un'ipotesi. È chiaro che non scusa un eventuale... Al di là del fatto che a Udine contro un ottimo Udinese si può tranquillamente pareggiare, non è un risultato catastrofico, però sappiamo pure che nel nostro calcio, insomma, vista la differenza che esiste tra le grandi e le altre, ogni volta che hai anche semplicemente un pareggio contro una squadra che non è in una partita, che non è uno scontro diretto, sono due punti persi. Quindi sono due punti persi, 8 sono tanti comunque, anche perché la Roma mi sembra oggettivamente un po' stanca, adesso magari recupererà dal punto di vista fisico. Credo che Spalletti qualcosa in una stagione praticamente perfetta l'abbia sbagliato in questa settimana nelle due scelte, nelle partite contro Lazio e Napoli, e insomma, però non credo che ci siano margini di recupero per quelle che sono dietro. Penso che la Juve ieri si sia presa abbia schiacciato un po' una pennichella, con abbia schiacciato pieno merito dell'Udinese. Dai, sì, pieno merito dell'Udinese, ma anche della Juventus, che si è trovata la macca, insomma, per schiacciare questa pennichella. Ci sono alcuni ascoltatori che scrivono fastidiosi come zanzare, infatti ce li teniamo e poi là li rimandiamo. C'è chi mi scrive: prima cazzata, Belotti lanciato da Chini a Palermo. Lo sappiamo che Belotti arriva dal Palermo, però Ventura se l'è cresciuto per un po' al Torino, questo intendevo dire. Altro ascoltatore che scrive: dai, ci sono dietrologo, il solito dietrologo, ci sono squadre partite da calcio scommesse, avete visto che schifo siete ciechi, Bologna, Empoli, Genova, Sassuolo, continua l'elenco ma non ho spazio sul monitor del WhatsApp. Vabbè, senti, fermiamoci per il traffico che è meglio. Convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. È normale che abbiamo fatto non una bellissima partita, ma perché l'Udinese ha fatto veramente una bella partita, ha raddoppiato, ha triplicato. L'Udinese veniva a 3 sconfitte, Udine in un ambiente che dopo trova queste prestazioni. Noi il secondo tempo secondo me potevamo fare un pochino meglio, avendo meno fretta e non farsi ingolosire troppo da questa lineata l'Udinese, ma variare un pochino più le giocate, una volta un pochino più sul lungo, una volta un pochino più sul corto. Vuol dire che abbiamo guadagnato un punto e c'è una partita a meno da giocare. Questo non vuol dire che abbiamo vinto il campionato, anche se avessimo vinto non era chiuso assolutamente. E quindi oggi era un bel 7 point, non un match point. Ragazzi, lunedì siete difficili da digerire, eh? Via WhatsApp, un'altra cazzata, quella delle 38 vittorie consecutive della Juventus. Non ho detto 38 vittorie consecutive, ho detto era 38 volte che la Juventus non, cioè, ha vinto 38 partite, le altre le ha perse fin qui, in mezzo a quelle 38, e sono poche quelle che ha perso. ieri è stato il primo pareggio, non so come altro dirlo. Maurizio Crosetti, ciao. Eccoci, buongiorno. E che dire ciao basta o si viene fraintesi anche dicendo ciao? Beh, sei fazioso, sei fazioso. Sono faziosissimo, era un perché ciao decisamente di parte. Hai detto ciao, detto ciao alludendo a una complicità con Diventa che ha appena detto, ha appena commesso l'errore a favore della Juve, quindi sei fazioso. Mamma mia, ragazzi. Sei fazioso. Sei fazioso, Crosetti. No, cominciamo, scusate, visto che poi... Ma viene da te Tiki-Taka stasera, Crosso. No, non viene da me, stasera mi lascia solo, cioè te è in ottima compagnia, però... Ti tradisci. No, vogliamo invece cominciare la nostra analisi con un pensiero al professor Malfitano, che è giornalista della Gazzetta, che è stato oggetto di un atto vandalico, insomma, probabilmente intimidatorio, e che da qualche tempo è vittima di una, da quello che ho letto stamattina sui giornali, di una campagna sul web, insomma, veramente assurda. Mi sembra, io ti dico la verità, stasera ne parliamo anche un po' a Tiki-Taka, mi sembra che da una parte e dall'altra si stia veramente un po' esagerando, insomma, al di là della condanna assoluta di qualsiasi forma di violenza, e questo voglio dire, tanto sta va a sandir, mi sembra insomma che ci siano dei toni un po' veramente un po' esagerati. Soprattutto sul web, non possiamo chiuderlo per un anno. No, non lo chiudiamo il web perché siamo democratici, perché il web è bellissimo. Sì, però... ma certe volte mi passa perfino la voglia della democrazia. Guarda, te la dico grossa, che devi risolvere, lo devo risolvere, no, lo so, sto scherzando adesso. Non fai tutti, no, permalosi, è ovvio che stai scherzando, però ecco, insomma, la dietrologia è qualcosa di veramente brutto, insomma, secondo me vabbè, comunque, insomma, mi sembra giusto e doveroso, appunto, ma certamente al professor Malfitano. Dicevamo, Maurizio, io e Pierluigi, che la Juventus ieri ha schiacciato una meritata pennichella, ha fatto la siesta all'ora della siesta, complice un Udinese che, ti ricordi tutti quelli che dicevano, ma l'Udinese si scansa, questa storia ormai fa ridere, ieri ha giocato una eccellente partita contro una Juventus che ha schiacciato la pennichella. Infatti non si scansa proprio nessuno, che c'è qualcuno che qualche volta è veramente molto molto più debole. Che c'è qualcuno da scansare. Sì, c'è una quota salvezza che sarà alla fine della stagione la più bassa nella storia del campionato. Le tre in fondo perdono sempre. Oggi si discute della presidenza federale, ne parleremo, ne avrete già parlato. Di fatto la Serie A non è a 20 squadre, ma è a 17 squadre più 3 che giocano in B1. È perché è così quest'anno. Ma non è che si scansano per far favore a qualcuno alla Juve, si scansano perché sono più scarse, molto più scarse. Non c'è mai stata una forbice così ampia. La Juve si è fatta la pennichella, ma soprattutto mi è sembrata un po' stanca, fisicamente un po' appannata, quando Bonucci si fa sradicare in quel modo da un grande atleta, fisicamente parlando, come Zapata, mi viene da pensare, perché anche Bonucci fisicamente non è secondo a nessuno, no, però chiaro. Ci sta un po' di logoria, bisogna vedere se è una sosta, no, ma sono, o sono, se è un po' di logoria, però. Ma sono tanti quelli stanchi all'inizio della primavera, noi compresi, abbiamo tutti bisogno di un po' di ricostituente, no, Pierluigi? Mi è sembrata stanca la Roma sabato, dopo aver sì, perso sulla Roma il Roma, io condivido la tesi di chi pensa che insomma abbia un po' invertito le due partite, poi chiaramente col senno di poi siamo bravi tutti, e rimane il fatto che Spalletti è un grandissimo allenatore, però ho la sensazione che abbia sbagliato qualcosa in queste due partite, perché la squadra è arrivata praticamente senza cambi dopo la battaglia con l'Inter, è arrivata al match contro la Lazio con la scelta di Salah che contro quel tipo di avversario che comunque si chiude molto non è che riesca a trovare tanta profondità, e poi invece nella partita contro il Napoli, dove forse invece col Napoli che gioca un po' più aperto, che ti concede qualcosa in più, forse Salah dal primo minuto poteva essere utile. Manca ovviamente la controprova, la squadra è un po' stanca, resta qualche giorno per recuperare fisicamente, e poi ovviamente vedremo che succederà contro il Lione. Ma guarda, io secondo me la chiave della Roma di quest'anno è proprio l'Europa, perché lì l'Europa è lontana, cioè lo so Pierluigi, però ha eliminato Villarreal, il Lione è un sorteggio brutto, ma non è il Real Madrid, non è il Barcellona dei tempi migliori, eccetera. Resta lo United, resta il Manchester United di Mourinho, poi le altre sono superate. Insomma. Sì, sono superabili, ma devi superarle. Cioè, l'Europa League è il regno dell'equilibrio, no? Tante volte rimaniamo sorpresi nel vedere squadre magari dell'est, di paesi calcisticamente non di primissima fascia, che riescono a comprare delle imprese, quindi è complicata, è lunga e difficile, però insomma è ovvio che è uno scenario importante. Io sono anche convinto che adesso, insomma, passata questa fase così concentrata e così complicata del calendario, la Roma troverà nuovamente energie. Sono convinto che la crisi dell'altro giorno sia stata una crisi fisica, anche se poi in realtà il finale in crescendo fa pensare a una... un aspetto più di carattere psicologico. Sì, un piccolo cedimento del Napoli, Maurizio, oggi ne scrivi a lungo anche tu. Napoli meraviglioso per 80 minuti, poi ha rischiato in modo abbastanza inutile, ma è entrato Salah, appunto, io sono d'accordissimo con Pardo, ha cambiato le carte in tavola, come forse si doveva fare dall'inizio. Prospettiva Real Madrid, sai che poi parleremo a lungo dopo le 15 di questa vigilia di sfida con il Real. Tra l'altro il Real ha scelto un alloggio strano in Palazzo Caracciolo, ha affittato tutte le 150 stanze di questo albergo di lusso che si trova in centro, vietati i service, sono portati i cuochi e così via, però è una scelta abbastanza strana perché normalmente le squadre in trasferta a Napoli vanno negli alberghi di lusso sul lungomare proprio per evitare la caciara, invece lì in downtown. Quello visto ieri sera invece è una squadra che insomma può sparigliare con il Real. Beh, intanto il Real Madrid che si prende tutto il palazzo mi ricorda Noodles in C'era una volta in America, che prenota tutto il ristorante sperando che quella potrebbe essere la cena della sua vita con la donna che desidera da sempre, ma poi andrà a finire una schifezza la serata, e anche la storia d'amore, quindi speriamo, auguriamo, non ce ne vogliano gli amici spagnoli, ma insomma un esito simile, esatto. che vada in vacca anche la festa del Real. No, in realtà certo è un sogno, è un progetto più che un sogno possibile, dal punto di vista agonistico, emotivo, ambientale è certamente possibile, anche dal punto di vista tecnico se si saprà mantenere l'equilibrio difensivo, perché quei tre lì davanti fanno male, possono fare male anche al Real, certamente, come del resto ha fatto male Insigne all'inizio della partita del Bernabeu. E poi certo che è un'impresa ai limiti del difficilissimo, è oltre, forse oltre, ma non è impossibile. Il Napoli dovrà viverla cercando di, già prima di viverla, di dimenticare i malumori e soprattutto rimanendo lontana da quella tendenza a farsi male che qualche volta lo caratterizza. Ed è un messaggio certamente al presidente, sì. Perché qualunque cosa accada sarà qualcosa di grande, qualcosa da ricordare. Sarà qualcosa di bello da vivere, di bello da vivere per noi che la guardiamo in tele, per chi la commenterà, per chi andrà allo stadio, per i giocatori che la giocheranno, per Sarri in panchina, per il calcio italiano. Sarà qualcosa di bello da vivere, punto e basta. Certo, beato chi può giocare contro il Real Madrid. Bravissimo. Sempre Atleti che qualche minuto fa ho sentito la dichiarazione del cavaliere che è proprietario dell'albergo Caracciolo e proponeva questo tipo di teoria che nel dubbio mi piace sposare, no? L'immagine internazionale di Napoli stia migliorando, stia crescendo al punto che Real Madrid sceglie un albergo in un quartiere oggettivamente molto popolare, molto popoloso, e che potrebbe anche portare a qualche forma di disturbo rispetto all'altro. Ma io sono convinto che Napoli darà invece la dimostrazione opposta. Ne sono stracerto, e mi piace pensare che questa scelta, sicuramente molto romana, io ci ho dormito in quell'albergo, è bellissimo, oggettivamente è bellissimo, però è più da turismo secondo me che da squadra di calcio che deve trovare pace e tranquillità. Insomma, mi piace pensare che questa scelta sia arrivata come segno di una percezione migliorata negli ultimi anni, cosa che mi risulta, quindi questo è quello che speriamo. Sulla partita penso che ovviamente sia una strada molto stretta, sì. Una strada molto stretta, perché comunque al di là del risultato Real Madrid è andata, ha dimostrato in una situazione di difficoltà di saperne uscire fuori. Viviamola col massimo col sorriso più bello 30, che abbiamo. 25-75 com'è secondo voi? Ma sì, ci può stare, i numeri sono sempre quella cosa. 30-70. Più o meno è così, dai. 30-70 e 30 non è poco, ragazzi. No, 30 ce li teniamo tutte belle strette queste cifrette delle percentuali. Visto che mi hai salutato male prima, Crosetti, sì. Domanda faziosamente, da bar. Non male, faziosamente. Faziosamente. Domanda da bar, quanto vale Belotti? Se è costato 20 Zaza... 200.000 miliardi di trilioni. Vale 80, dai, vale 80, e quindi la clausola 100 è una clausola giusta, perché la clausola deve essere deve raccontare qualcosa in più. Ovviamente la clausola deve essere una via d'uscita che un presidente si dà per un giocatore che non vuole vendere, ma se te lo devo vendere per forza te lo vendo per una cifra un pochino superiore a quello che è il suo valore di mercato. Quindi secondo me siamo sugli 80 milioni oggi come valutazione. Finirà che Cairo si tiene Belotti e si vende il Corriere della Sera o viceversa, oppure darà a Belotti la direzione del Corriere, esatto, della Sera. Questo pensavo, oltre la Gazzetta, la condirezione o della Gazzetta. Salutiamo il presidente che oggi ho cercato, ma era in altre faccende affaccendato. E salutiamo anche Maurizio Crosetti con un ciao fazioso. Ciao. Borsa, torniamo. Tutti convocati. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Attenzione che c'è una scheggia, è Insigne, uno contro uno, Insigne la mette, corta e tesa, Trish Mertens! Searching for something, something never comes, never leads to nothing. Bacca che può entrare in area di rigore, al centro arriva Deulofeu, Bacca vuole arrivare in zona tiro, Bacca si accentra, Bacca parte il tiro, rete, Bacca torna con sua azione, decimo gol in campionato. Alla ritrata per Eder, entra anche Candreva, Gagliardini al limite, tira Gagliardini, eccolo il suo primo gol in Serie A, segna Roberto Gagliardini. Eccolo Dybala che cerca il secondo palo, la palla entra, la Juve segna il gol dell'1-1 con Leonardo Bonucci. Milinkovic, buono il tocco dentro per Immobile, uno contro uno, Immobile, doppietta per lui, il 2-0 per la Lazio al 29esimo. Quando voglio, la base mi piace, come sai, caro Ferronato, quindi sarà andato avanti ad ascoltarla. Ma abbiamo notizie da darvi e cose di cui discutere. Il Palermo non cambia l'ennesimo allenatore, ma cambia il presidente. Il nuovo presidente del Palermo si chiama Paul Baccaglini ed è colui che rappresenterà la nuova proprietà, di cui andremo ad approfondire i contenuti e di cui andremo a contare i dollari per capire se sarà un grande Palermo. C'è arrivato anche il professore che scrive di calcio, capite pochino ma vi ascolto perché siete simpatici, grazie a Frank da Novara. Chi di sicuro capisce, caro Pardo, è lo zio Bergomi. Ciao, ecco Beppe. Qua. Ciao Beppe. Ragazzi, buongiorno. Ciao a tutti. Grande ascoltatore di Tutti Convocati, eh? Uno dei più fedeli. Uno dei più fedeli fin dalla prima ora. È vero. Sì. Tutti i messaggi, Pier. Sì. Lo so. Tu devi. Senti, ti inviterei a Tiki Taka, ma abbiamo, sai, poi magari non si può. Magari si può pure, perché sai che ormai siamo in Pax Televisiva Mondiale. Quindi, Pax Televisiva Mondiale, saltate tutte le esclusive, Sky, Mediaset, tutti amici, sì. Arriva Liguori e spacca tutto come ha fatto ieri pomeriggio. Vabbè, zio. Inter, sì. Grande risposta Cagliari, quella di ieri. Però, se mi permette di essere malizioso, crescono i rimpianti per la partita con la Roma, perché Perisic ad esempio regalato alla Roma senza un terzino dietro, ne parlavamo ieri con Massimo Paganin, è stato un elemento negativo in una partita fondamentale come quella con la Roma. Sì, era stata la prima domanda che io ho fatto a Stefano Pioli, no? E lui mi ha spiegato che anche così poteva essere una soluzione efficace, però io penso che Perisic, se gli fai coprire 80 metri di campo, allora termina meno. Invece se gioca giustamente con un difensore dietro, ti può far gol, ti può fare l'assist, ti inventa calci, diventa veramente pericoloso, perché è un giocatore che ha cambio di passo, è intelligente, secondo me può crescere sempre, perché lui anche all'interno della stessa partita ogni tanto si assenta, ma determina. E così secondo me ha rischiato troppo Stefano. Penso che l'Inter è strutturata per giocare un 4-2-3-1, molto dinamico. Lì l'assenza di Miranda, secondo me, non l'ha fatto sentire tranquillo. Loro ha voluto stravolgere un po' la partita con la Roma. Ho capito, ma Miranda, tienilo giù contro il Bologna. Lo so che è una partita da vincere, però magari rischi un po' meno. Tienilo giù vuol dire mettilo in panchina, tienilo fuori. Ma no, guarda, quello no, perché non devi ragionare così, perché ogni guarda, sai perché ti dico questo? Perché il mio ultimo anno, no, il penultimo, con Gigi Simone, prima di giocare con la Juventus, con la partita storica, io ero diffidato, mi dice, dobbiamo giocare con l'Udinese, ma se non battiamo l'Udinese, diceva, inutile che poi andiamo a Torino. E quindi mi ha detto, tu giochi, e sono stato puntualmente ammonito e non ho giocato quella partita. però, con tutta la tua esperienza. Viola. No, scherzi. L'ammonizione c'era però non andiamo oltre, non andiamo oltre. L'ammonizione c'era dopo una telefonatina che è partita. Un minuto di tranquillità. No, io penso di raccoglimento, sì. Penso che io sono sempre d'accordo con Pedro, non c'è niente da fare. 4-2-3-1 è proprio la morte sua, come si dice a Roma. Per l'Inter, perché ha un grande attaccante centrale, perché ha due esterni, ha una batteria di esterni offensivi che hanno questa qualità. È chiaro che se metti Perisic tutta fascia lo sfinisci e ti arriva meno lucido quando poi invece devi incidere. Posso dire, è un giocatore abbastanza umorale, no? abbastanza intermittente, quindi secondo me quel tipo di lavoro non glielo puoi chiedere. Ma perché Pierre? Ma l'Inter cresce, perché Piersi giocando così poi con una difesa a tre, Candreva lo perdi, nel senso che ti deve fare solo il binario, invece Candreva i gol li ha fatti quando è entrato dentro, che arriva a concludere, quando lascia spazio al terzino, quando poi Gagliardini è condotto, ma soprattutto Gagliardini che non deve a quel punto sfinirsi a marcare Nainggolan, ma fa gioco ed è un giocatore, secondo me, io non ho mai avuto dubbi, io l'ho visto quando è cresciuto nel settore giovanile dall'Atalanta, che ti insegnano tanta tecnica. E lui non sbaglia mai un pallone ed è un giocatore importante. L'Inter si gioca così, o magari rischiare dipende anche qualche gol in più, ma almeno gioca a calcio ed è propositivo. Sì. Guarda, io penso che la difesa, adesso facciamo un po' di coverciano, che per giocare a tre devi avere veramente degli esterni con delle caratteristiche molto, molto particolari. Ce l'aveva per esempio la Roma nell'anno dello scudetto con Cafu e Candelà, c'era ancora in questo momento la Roma, l'Inter non ce li ha giocatori con queste caratteristiche. È chiaro che D'Ambrosio può farlo, lo può fare Ansaldi, però insomma secondo me sono nettamente maggiori le positive del giocare a 4 e secondo me poi comunque a parità giocare a 4 è meglio, cioè come impostazione di partenza non c'è una regola assoluta, perché poi ti devi comunque inevitabilmente adattare alle caratteristiche dei tuoi giocatori, però quando riesci a giocare a 4 penso che sia un po' il ragionamento che ha fatto anche Allegri, mediamente riesci a sfruttare meglio le caratteristiche e il talento della squadra. Sì, perché poi devi anche scegliere, nel senso che io ho pensato che con il rientro di Medel ho detto non volevo lasciarlo fuori, mi metto a 3, invece ieri ha scelto fuori Murillo e gioca Medel, oppure gioca Murillo e fuori Medel, cioè bisogna scegliere quello che ha fatto Stefano, nel senso parlo di Pioli, Joao Mario e Banega non tutte e due insieme, ma a turno gioca uno. Sì, zio, volevo andare con te su un argomento che abbiamo noi trattato ieri, cioè Pioli merita la conferma, Ausilio dice stiamo lavorando con lui sul futuro, sta facendo un'eccellente stagione e non ci sono dubbi, però la nuova proprietà dell'Inter ha fretta di raggiungere la Juventus, ha fretta di essere grande. E allora a quel punto circola il nome di Conte, circola il nome di altri allenatori che sono dei top e che conoscono già la strada per vincere. Sarebbe sbagliato sostituire Pioli con un top coach? La parola a cui hai detto fretta, e la fretta secondo me non va bene, cioè nel senso bisogna avere pazienza, come ha dimostrato sempre Allegri, che lui vuole sempre pazienza per le sue squadre, e poi alla fine arriva il risultato. Quindi io non andrei a stravolgere tutto quanto, nel senso Pioli sta facendo bene, mi sembra, ha un ottimo staff, io conosco un po' l'ambiente, li ho conosciuti, so anche come ragiona con Ausilio, che si trovano bene, quindi darei fiducia a Pioli, poi capire cosa succederà anche in queste 11 partite, ma indipendentemente da questo è un ragazzo serio, preparato, che sta crescendo molto, quindi lascerei lui. Poi capisco che pensare a Conte, che in questo momento è il miglior allenatore, a me piace tantissimo, stuzzica la fantasia di tutti quanti, però se dovessi scegliere io starei con Stefano Pioli. Staresti con Pioli. E il paradosso vero è che, è una battuta, ma quasi conviene a Pioli non andare troppo bene, nel senso che sto giocando, però voglio dire, un'eventuale qualificazione alla Champions League con l'entusiasmo e con la forza economica che questa società sembra avere potrebbe portare al paradosso di una, a quel punto per affrontare la Champions, di un cambio in panchina. Ovviamente Pioli il suo lo sta facendo veramente, secondo me l'unico piccolo punto interrogativo è stato nelle partite con le grandi, perché secondo me comunque i risultati in qualche modo contano, e nelle partite contro le altre grandi l'Inter non è riuscito a far valere invece l'autorevolezza e la forza e la fisicità che questa squadra ha, quindi vuol dire secondo me che in quelle partite lì, per quel livello lì, non è ancora una squadra dominante, ma è una squadra che si sta avvicinando a quel tipo di prestazione, a quel tipo di livello. Beppe, un attimo ancora, Traffico, sì? Poi ti voglio chiedere una cosa sul Milan. Va bene, okay. Traffico. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Io non sto facendo nessuna fatica, la squadra non sta facendo nessuna fatica, perché la società è totalmente adempiente. Funziona la cucina a Milanello con i cuochi, funziona la lavanderia, il magazzino funziona, la segreteria è efficiente, il management c'è, volgarmente i stipendi vengono pagati a tutti, i giardinieri aggiustano il campo, noi non abbiamo nessuna difficoltà, non ho nessun tipo di disagio. L'ho fatta risentire, l'ho sentita già ieri, che mi ha fatto molto ridere. Dunque, le bollette le abbiamo pagate, la spesa l'abbiamo fatta, il giardiniere pagato, il bonifico a fine mese arriva, tutto a posto. La situazione del Milan, Beppe Bergomi, è in classifica, no, sono lì vicine, e lì è bravissimo Montella, che andrebbe confermato l'anno prossimo e magari anche quello dopo. La situazione societaria invece è diametralmente opposta, nonostante 20 asiatici. No, lo so, però Carlo, io sto sotto l'aspetto tecnico, mi sembra che questa squadra, dopo un periodo dove secondo me giocava bene a calcio, i numeri erano migliori ma non riusciva ad ottenere risultati, è tornata a giocare un po' come faceva all'inizio, dove magari speculando qualcosa, ma la squadra riesce a portare a casa il risultato, e Montella è un allenatore che ha idee, un allenatore che sa costruire bene le proprie squadre e le fa giocare bene. Ecco, io mi fermerei lì, poi per il resto insomma ne abbiamo parlato, vi ho sentito, ne avete discusso di tutto, quindi aspettiamo di capire cosa succederà. Però giustamente Montella non vuole dare nessun tipo di alibi, è quello che hai fatto sentire prima, vuole dare un messaggio a tutti quanti che la squadra c'è, che deve andare avanti e deve pensare di raggiungere quell'obiettivo che in partenza, in origine, era l'Europa League, e è ancora in corsa per poterlo fare. Ed è stato bravissimo fin qui, bravissimo, sì. Bravissimo, meglio di così secondo me non poteva fare. Guarda, il Milan quest'anno non ha mai vinto, se non in rarissimi casi, partite nettamente, no? La squadra che ha dovuto essere sempre sul filo, ha vinto tante partite con squadre piccole, magari 1-0, faticando, insomma non c'è stata mai una grande superiorità tecnica. Secondo me forse dopo la Supercoppa aveva, non so se inconsciamente c'è stato un po' di rilassamento per quel risultato comunque molto importante raggiunto, però sa di fatto che per qualche partita i risultati non sono arrivati forse perché la squadra ha provato a giocare in una maniera un po' più alta. Io sono rimasto molto colpito dal derby dell'andata, in un momento in cui l'Inter aveva appena cambiato allenatore, era la squadra in crisi, il Milan era in una classifica altissima, però il Milan ha giocato veramente, non me ne voglia nessuno, da provinciale, sulle ripartenze, sul contropiede. Ecco, la mia sensazione è che di fondo questa è la dimensione della squadra, una squadra che sta facendo un buon campionato perché per buona parte della stagione ha capito quando deve soffrire, ha capito i suoi limiti, ha lasciato spesso il pallino del gioco agli avversari e ha saputo speculare. Questo tipo di situazione non sempre riesce a crearla e quindi poi alla fine, secondo me, alla lunga, per fare la domanda che dicevi la settimana scorsa, arriva più in alto l'Inter, secondo me arriva più in alto anche la Lazio, nettamente, sono due squadre insomma superiori. Sì. Grazie zio. Figurati. Ciao, alla prossima, ciao Beppe Bergomi. Pardo, sei pronto? Ecco, vabbè, ho vinto anche stavolta. Qui per certificare Luca, la vittoria di Pierluigi nei confronti del nostro capuano nel derby. Ma perché continuava a cioè io pensavo che fosse scontato, no? Cioè, però un modesto 6 da parte di Pierluigi. Modesto 6. Ha fatto di meglio, diciamo. Però ha indovinato la Sampdoria. Ha indovinato la Sampdoria. Ho indovinato la Sampdoria, c'è stata la parata di Reina, anche se il Napoli ha meritato l'Olimpico, perché insomma, che ha tolto un punto, c'è stato il pareggio della Juve che non mi aspettavo. È stato bravo a indovinare l'Atalanta, Atalanta Fiorentina X. La Lazio. Ha indovinato la Lazio. Non ci voleva poi molto. Ha sbagliato però il Crotone col Sassuolo, sì, aveva detto 2. Sì, la Juventus aveva detto 2. Pierluigi non fare 6, un modesto 6. Comunque ha vinto 6-4, insomma, stravinto, quindi sono adesso nettamente in testa su Capuano. Quanto? Anche con i suoi calcoli. Ma lui dice che sono sopra di 1. A me sembrano calcoli, comunque sono sopra, insomma. Sei sopra. Sei sopra. Ma morta lì, Comodamente sopra, comodamente sopra. 6-4. Comodamente sopra. Orlando, buongiorno. Buon pomeriggio. Dica. E grazie della convocazione. Allora, no, io volevo sottolineare solo due cose. Mi aspettavo che la trasmissione oggi si fosse aperta. Mi sente? Sì, sì. La sto ascoltando. Ah, perfetto. No, dicevo, pensavo che la trasmissione si fosse aperta con un invito ad alzarsi in piedi e tributare un applauso a Marek Hamšík, che ha annientato il sedicente miglior giocatore della Serie A. Quando il miglior giocatore della Serie A, numeri alla mano, negli ultimi 10 anni, chiedo scusa, risulta essere proprio il nostro capitano. E poi chi è che ha annientato? Mi sono perso un pezzo. Chi avrebbe annientato, scusami? Il sedicente miglior giocatore della Serie A, Nainggolan, con quante G già, non lo so pronunciare, quel nome con troppe G. Esatto. Quasi ridicolizzato, diciamo, dai, c'è la parola giusta. E poi pure in merito alla gara della Juventus, io non l'ho vista affatto sonnecchiare, ho visto fare la solita prestazione con la variante che non è arrivata casualmente una vittoria, come con l'Udinese all'andata, come con l'Empoli all'andata, come con Napoli all'andata. Era la solita Juventus, cioè far passare il messaggio che abbia sonnecchiato mi sembra più che fazioso, come scherzosamente dicevate, cioè, irritante. Allora ecco, Orlando, allora c'è molta malizia nel suo intervento, ma bene accetta. Del Napoli, degli applausi in piedi di Hamšík non so, però delle importanti parole di Sarri parleremo subito dopo il GR che ci sta aspettando, e parleremo molto di Napoli. Abbiamo dichiarazioni di Sarri che ha appena finito di parlare. E torneremo sull'argomento, inquadreremo la vigilia del Real Madrid, vedremo se habemus papam alla Federcalcio, tutto questo accadrà. Quanto al resto, non so se Hamšík è certamente uno dei migliori giocatori del campionato, quanto al resto era facile ironia, no Pardo? Almeno a me sembra di averla colta così. Sicuramente il Napoli ha vinto la partita, ha vinto meritatamente, a parte il quarto d'ora finale con la Roma. Quindi Hamšík è fortissimo. Io non so se Nainggolan è il miglior giocatore del campionato, non lo so, non ci ho pensato se è lui, se è Belotti, se è Higuain, se è Hamšík, non lo so, quindi non faccio fatica a capirlo. Poi non so se c'è stata malizia sul discorso della vittoria della Juve, ma la Juve ha giocato secondo me una partita non di altissimo livello. Altre volte è vero che queste partite le ha vinte, come è successo per esempio recentemente, ti dico partite che ho raccontato io, quindi ce l'ho chiarissime, contro il Cagliari, contro il Crotone fuori casa, ieri contro l'Udinese più o meno la stessa cosa, solo che l'Udinese ha trovato il gol e questo ha complicato molto i piani della Juve. La Juve non ha avuto la stessa ferocia di altre volte, il resto non saprei. Tanto ti saluto, buon tiki-taka, stasera immobile in studio, Carega collegato da Napoli. tante altre sorprese, insomma, 23.45, vi aspettiamo. Ciao Pierluigi, a domani. Ciao. Dopo GR state con noi, perché le parole di Sarri, le prime pronunciate dopo la fatidica notte di Madrid, Pierpaolo Marino per discutere, per discuterne, e poi vediamo se saremo in grado di annunciare il nome del nuovo presidente federale, che magari è quello vecchio, cioè Tavecchio. A dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Pezzone, come mi dice Gianmarco Ferronato, si sente che è tornato Marilyn Manson. Questa la dedichiamo. Allora, vi devo dire cosa è successo nella pausa per il GR. Tra poco parliamo di Napoli, state qui, perché attesissimo Sarri, oggi attesissima conferenza stampa di Sarri, che non parlava da quella famosa sera di Madrid. Alza. Marilyn Manson, adesso vi dico a chi la dedichiamo. Allora, durante la pausa per il GR, il dottor Cruciani mi ha convocato qui dietro di me nel suo antro, e mi ha detto: mai visto il nuovo presidente del Palermo, Paul Baccaglini? Ha detto: no, non ho il piacere, non ho presente. Mi ha fatto vedere la foto che credo Giorgio De Luca abbia già postato su Instagram, di questo bel giovanotto alla corona, con un look totalmente alla corona, tutto ricoperto di tatuaggi, aria da sciupa femmine. Questo importerà pochissimo naturalmente ai tifosi del Palermo, che attendono una grande squadra. Per il momento possiamo dirvi che forse il presidente più, diciamo così, trendy, anticonvenzionale della Serie A intera. Vabbè, allora, voi volete sentire Sarri e io ve lo faccio sentire. C'è stato questo incontro chiarificatore con De Laurentiis a cena. Cosa si sono detti? Ovviamente è stato chiesto poco fa, pochi minuti fa, l'allenatore del Napoli, che ha risposto così: siamo uniti per forza di cose in questo momento, l'obiettivo comune, e mi sembra evidente, è quello di far bene. L'incontro del presidente non ne parlerei neanche, visto che abbiamo parlato mezz'ora, di cui 28 minuti di cinema, perché ho due o tre cose in testa, gliele volevo sottoporre, perché ho buttato giù un paio di sceneggiature. Ora mi sembra molto apprezzabile e spero il presidente mi faccia fare veramente il film. Spero non si arrabbi per il calcio, perché poi se no non me lo fa fare e mi dispiacerebbe molto. Quindi questo non è chiaro se Sarri si sta attrezzando per un dopo carriera calcistico o se farà il doppio lavoro. Sarri ovviamente ha parlato anche della gara con Real, così. Per la partita ho sentito parlare da molti di voi di pressione, ma la pressione deve essere tutta dalla parte del Real Madrid. I campioni del mondo sono loro, i campioni d'Europa sono loro, la squadra più ricca del mondo sono loro, quindi è normale che il turno lo passino loro. Noi abbiamo il compito di metterli in grandissima difficoltà. Io so che loro sono i campioni del mondo, ma noi abbiamo la tifoseria campione del mondo, e domani sera lo vedrà tutta Europa, e sarà un ambiente difficile. La partita per noi è quasi impossibile, visto che loro segnano da 46 partite consecutive, ma potrebbe diventare anche difficile. Per loro non sarà impossibile, può darsi che gli faremo girare leggermente i coglioni. Carmelo Prestisimone ha seguito la conferenza stampa di Sarri. Ciao Carmelo. Ciao Carlo. Può darsi che gli faremo girare leggermente i coglioni. C'è tutto Sarri in questo finale. O i cojones. Cojones. Carlo, se non altro tu dicevi una carriera eventualmente dopo come autore, come sceneggiatore, ma sicuramente come umorista, come fine umorista, perché questo signore tosco napoletano, perché è nato a Bagnoli, certo, periferia ovest di Napoli, però poi come sai insomma è cresciuto tra Figline Valdarno, Firenze e tutto quanto il resto, insomma la Toscana, ha vissuto la Toscana a pieno regime negli anni della gioventù, ha dimostrato di avere un sarcasmo, un umorismo davvero raffinato, molto britannico, molto anglosassone. È un Napoli che deve giocare con la testa vuota, nel senso, naturalmente, libero da pressioni, così ha detto Sarri, perché le pressioni sono tutte per il Real Madrid, ci sono anche 400-500 tifosi, ti dico, napoletani nei pressi dell'hotel del Palazzo Caracciolo, ecco, della Allora, facciamo un po' di cronaca. Il Real dovrebbe essere arrivato, no, a Palazzo Caracciolo, via Carbonara, esatto, 112, cuore di Napoli. Curiosa la scelta del Real Madrid, che non è andato sul solito albergo di lusso sul lungomare, ma ha scelto appunto l'hotel Caracciolo, che è stato prenotato per intero. Chiesto riservatezza al personale, vietati i selfie, si sono portati i cuochi, eccetera eccetera, però non è esattamente il luogo in cui una squadra va a preparare, va a concentrarsi per un match, no? Sicuramente, Carlo, ti dico che insomma in passato, nelle settimane passate, ci sono state anche altre squadre che hanno soggiornato lì, per esempio c'è stato l'Hellas Verona che ha giocato ad Avellino, parliamo naturalmente di Serie B. È una location sicuramente curiosa, come dicevi giustamente tu, diversa dal punto di vista paesaggistico rispetto al lungomare, che è decisamente più bello, però anche più caotico, così come il corso Vittorio Emanuele, perché alcune squadre, tra cui anche la Juventus, l'Inter, in passato hanno soggiornato, hanno preferito alloggiare al corso Vittorio Emanuele, che è sempre una location dove il paesaggio è bello e si vede, è visibile, è evidente. Però questa scelta per me, che conosco Napoli e che conosco le strutture napoletane, credo che sia sintomatica del fatto che naturalmente il Real vuole un bel po' di serenità, vuole stare tranquillo, vuole stare sereno. L'albergo è enorme, molto bello, 150 stanze quasi, dicevi bene, nel centro, nel ventre di Napoli, non lontano dalla ferrovia. Sì. Lì naturalmente i giocatori potrebbero trovare quella serenità utile per affrontare una gara così importante. Poi anche il tragitto non sarà dei più semplici, no? Quanto ci vuole da lì allo stadio? Ci vorrà una ventina di 20-25 minuti, ci vogliono, hai ragione. 25 minuti, ci vogliono. Ascolta, guardando in faccia a Sarri, racconti, scrivimi la faccia di Sarri. Faccia imperturbabile. Fai la faccia alla Sarri, anche se non si vede per radio. Fai la faccia alla Sarri. Silenzio, allora faccia ti posso solo, posso anche non parlare. Faccia imperturbabile, Carlo, insomma sempre molto olimpico, molto lucido, pronto nelle risposte, fine umorista come abbiamo detto, grande carica agonistica, uomo di tempra, allenatore di tempra, insomma quella frase, proveremo a far girare i coglioni o gli attributi, butti, diciamo, insomma, va bene anche quella. Possiamo parafrasare, ma va bene, comunque il senso è quello. Sì, è quella lì, insomma, è abbastanza emblematica. Naturalmente ha spostato tutte le pressioni, le attenzioni sulla squadra madrilena, ha detto che naturalmente Mertens ci sarà perché accusava un fastidio muscolare dopo la partita con la Roma, il Napoli non cambierà modulo e giocatori, il 4-3-3 lo conosciamo, con Reina, Goulam, Koulibaly, Albiol e Usai in difesa, Diawara dovrebbe essere il playmaker, giocatore giovane che gioca semplice, uno o due tocchi, sugli esterni Amsic e Rock, e poi il tridente Insigne, Mertens e Caglion, con il belga che ci sarà. ecco il back che ci sarà, mancherebbe altro che non ci fosse. Ci mancherebbe altro, certo. Grazie Carmelo, ci sentiamo. Grazie a grazie. Te Carlo. Grazie Carmelo Presti Simone. Allora lunedì a me è venuto sto uzzolo qui di fare le pagelle con i presidenti. Chiamo presidente Pierpaolo Marino. Ciao presidente. Ex presidente. Fa niente, ti chiamo presidente lo stesso, che non posso, ci conosciamo da un sacco di tempo. Senti, come no. Dammi un voto alle possibilità del Napoli con il Real. Ma io dico 30, sono esagerato? No, siamo tutti d'accordo su 30, anche Pardo, zio Bergomi, eccetera, eccetera. Non lo sapevo. Sì, sì, siamo invece alla reazione del Napoli a Roma dopo la doppia sconfitta con Atalanta e Juventus. Quello che ci voleva, reazione di gruppo, di cuore, di napoletanità. Grande partita. Napoli ha fatto 80 minuti meravigliosi e gli ultimi 10 in cui ha inutilmente rischiato. È chiaro, è entrato Salah, quello che vuoi, però ha inutilmente rischiato di perdere, di pareggiare una partita già stravinta. Eh sì, però ci può stare che una squadra forte come la Roma faccia l'assalto a forte pace gli ultimi 10 minuti e magari trova un gol e poi la partita rimane aperta. Cioè, questo è il bello del calcio, però alla fine il risultato del Napoli non fa una grinza, perché sia i punti che nel risultato il Napoli ha vinto. Ascolta direttore, pace o tregua tra Aurelio De Laurentiis e il suo allenatore sceneggiatore? Perché ha detto che hanno parlato molto, l'avrai sentito? Non mi incoraggia il fatto che abbiano parlato solo di cinema. No, ha detto ci hanno visto una mezz'oretta, per 25 minuti abbiamo parlato di cinema e per 5 di calcio, ma in maniera distratta. Sì, sicuramente, ma non perché è Sarri, ma che poi è un paradosso, perché con Sarri bisognerebbe essere sempre pace, ci vorrebbe, perché quello che sta facendo, io gli porterei il caffè a letto ogni mattina come dirigente, dico. Però con De Laurentiis è sempre tregua, con gli allenatori non è mai pace. Sì, ti faccio invece una domanda da dettissimo ai lavori. Quanto vale oggi Belotti? Domanda da barra che ho fatto prima a Crosetti per prenderlo in giro. Guarda, mi piace la tua domanda, perché io 3 mesi fa sono stato ospite di un forum a Tutto Sport. Sì. Ed era il momento in cui Cairo stava mettendo la clausola rescissoria e rinnovando il contratto. E tutti quanti dicevano, che esagerazione, sta mettendo una clausola di 100 milioni. E io nel forum, che poi l'hanno scritto il giorno dopo il mio intervento, dissi la clausola, io sono sempre contro la clausola rescissoria, perché se il giocatore fa male non ti danno la clausola, ma se il giocatore fa bene, dopo qualunque tu, a meno che non metti una clausola come 250, 300 che mettono in Spagna per aggirare la legge del re, che è la clausola a favore dei calciatori, chiaramente, è sempre bassa, va bene. Cioè, in realtà, io lo dissi 3 mesi fa, sì, che 100 milioni, se faceva il capocannoniere della Serie A, con l'età che ha e le qualità che ha, potevano essere pochi. E ieri sera vedevo un'imbarazzatissima conferenza o intervista di Cairo, sì, dove non sapeva come spiegare che forse era meglio non metterla quella clausola. Sì, ma vale solo per l'estero, Vale solo per l'estero. E quello almeno ha riparato, quello De Laurentiis ha fatto scuola. Quello De Laurentiis ha fatto scuola, certamente. Sì, l'errore di De Laurentiis ha fatto scuola. Un'ultima cosa, si sta eleggendo in questi minuti il nuovo presidente della Federcalcio, Tavecchio o Abodi, per chi ti saresti schierato tu? No, io ho votato Tavecchio quando tutti erano contrari, e ora mi pare che la maggior parte dell'opinione pubblica è pro Tavecchio, quantomeno della critica. E quindi vuol dire che ha lavorato e ha fatto completare il suo lavoro. Sono molto amico di Abodi, che è un uomo di marketing e che avrà il tempo per rifarsi. L'unica cosa che dico è che se Abodi, come sembrerebbe, perché mi pare che questo sia almeno al momento l'orientamento degli ex pool, come dire, no? Sì, gli ex pool dicono questo. Dico, se dovesse fallire lì, non sarà facile riciclarsi, perché alla Lega di Serie A, per me, se si fa il closing va ma sicuramente Galliani, quindi se lui pensa di poter rifilarsi lì e diventa difficile. Sto closing, tengo i miei dubbi, ma comunque però se si facesse il closing, per quanto l'ingaggio da presidente di Lega ai livelli di Galliani è poco, perché sono 100 milioni di euro, 100.000 euro, chiedo scusa. Ma la liquidazione la liquidazione però è alta, la conosciamo, la liquidazione però, sarebbe... Però io penso che Galliani, se dovesse finire il Milan... avrà sempre incarichi di alto profilo. Hai dato un'occhiata alle foto del nuovo presidente del Palermo? Lì aspettiamoci un altro closing infinito. Hai dato un'occhiata alle foto? Sì, le ho viste, sì. Molto bene. Guardatele anche voi, anche sul nostro tweet. Quello sarà un altro closing infinito, te lo dico già prima. Ci divertiamo come i matti. Sì, sicuramente. Ciao, direttore, grazie. Ciao, caro, ciao. Ciao. Allora, top 3 ascoltatori, Giorgio De Luca comanda lui. Ascoltatori. Elio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, volevo animare un po' la trasmissione. Animiamola, con qui. Perché è un mortorio questa trasmissione. Vi volevo girare una domanda molto interessante. Se Napoli è maturo per una nuova era a Lodi, quando c'è stata la famosa magica Maradona, Giordano e Careca, ormai il Napoli si è anche irrobustito con delle risorse giovani, manca soltanto il punto di arrivare a una nuova era a Lodi. Programmare seriamente in maniera manageriale per vincere qualcosa. Ma mi sembra tutto che qui. Elio, la sua domanda è molto interessante. Io dico che si sta già attrezzando. Cioè, il De Laurentiis è stato bravissimo, secondo me, come presidente. In questo possiamo dibattere su un sacco di cose. Però è stato bravissimo nel programmare la crescita del Napoli. Poi, come sappiamo, l'era di Maradona era una cosa. Adesso si sventolano tutte le parti fatturati, e lo fa Sarri, lo fa De Laurentiis, ovviamente lo fa la Juventus, che è il più pesante di tutti. Quindi io credo che il Napoli stia lavorando come deve lavorare il Napoli. A proposito, posso farvi sentire Hamsik? Non l'abbiamo ancora sentito, Vigilia, quindi voce freschissima. Un grande evento, ma non ci deve dare pressione, ci deve dare la carica e ce la dobbiamo godere, perché è una grandissima partita contro grandissimi campioni, contro squadra che ha più trofei di tutti nel mondo, allora ci deve dare la carica e forza di affrontarla e godersela come se la deve godere anche il nostro pubblico, perché veramente sarà una partita speciale sia per noi anche per loro, e non vedo l'ora di scendere in campo e godermela. Allora, avevamo appuntamento telefonico con Antonello Valentini, già ve lo dico, ex segretario della Federcalcio per lunghi anni, per discutere sull'elezione del presidente federale, ma non avendo ancora, al momento, sono le 15:25, il risultato dell'elezione. Mi sembra l'argomento per domani, ragazzi. Magari chiameremo, anzi, certamente proveremo a chiamare anche il nuovo presidente federale, che, salvo sorprese, dovrebbe essere quello vecchio, cioè Tavecchio. Paolo da Udine, buongiorno. Buongiorno. Dica. A voi. Niente, volevo soltanto raccontarvi una piccola cosa a proposito del Milan. La barzelletta? Nel mese di dicembre... No. Seguire la verità, che mi è stata detta. Nel mese di dicembre, i primi, mi sono trovato, ero in Messico per motivi di lavoro. In Messico, sì. Sì. Beato lei. E a un certo punto, mica tanto. E comunque, detto questo, durante l'interlocutore mio era la dirigenza di una società che appartiene a Slim, Carlo Slim, che è penso il primo o il secondo più ricco del mondo. Sì. A un certo punto l'uomo di fiducia di Slim entrò e così parlando a italiano, e c'è a proposito, io non capisco l'Italia, anni fa volevamo comprare quei soldi in mano a Telecom e c'è andata a buca. Qualche mese fa dice, sono andato a Milano su incarico di Carlos per comprare il Milan e ho avuto un incontro con Berlusconi. Avevo la facoltà fino a 800 milioni. Fino a 800? 800, questo sì. È quanto mi è stato. E mi dice, qualche tempo dopo abbiamo ricevuto da una segretaria una telefonata che non era di interesse. Ma scusa, fa, ma come può essere che 800, pensi che noi se abbiamo comprato, e io non lo sapevo, anche delle squadre di calcio in Spagna? Sì. Dico, strano, cioè non capivo quale potesse essere l'interesse. E lui è rimasto particolarmente abbioccato, siccome voi avete detto che chi dovesse comprare una squadra come il Milan deve anche dimostrare di avere i soldi per farlo, secondo me questo non offriva molti, in più aveva la capacità di reggere, di andare sul mercato a comprare poco meno tutti quelli che voleva. Guardi, la ringrazio e prendo ovviamente per buono questo suo racconto, che rendiamo pubblico ai milioni e milioni di ascoltatori che tutti i giorni ci seguono. La top 3 ve la fate fare o no? Andiamo veloci, dai. Gattuso che parla di Belotti. L'avevamo preso in comproprietà dall'Albino Leffi, io e Giorgio Perinetti, e io dopo pochissimo tempo ho detto, ho visto solo Shevchenko tirare in porta e prendere sempre specchio da porta, e lui era così. Zamparini ne ho presi di offese, dicendo che non capivo nulla, e dopo sì, alla fine dice che non gli piaceva Zamparini quando l'aveva ripreso. Ma secondo me poteva anche aspettare vendolo molto di più. Zamparini in effetti forse è l'unico giocatore che ha tra virgolette svenduto Belotti. Bonucci che scherza sul suo futuro. Può succedere che si veda una piccola crepa e uno si insinui, anche se lei ha appena rinnovato il contratto. È successo oppure no in queste due settimane? Ho cambiato numero da poco, quindi non ce l'hanno perché non è squillato. Non è squillato, va bene, quindi il futuro... No. Mi sa che era pronta questa risposta, Infine, Donadoni che si arrabbia sulla mancanza di stimoli di certe squadre. Ci stavamo chiedendo, Roberto, questo fatto di essere comunque tranquilli, no? Come posizione classica, come classifica, con le ultime tre, è un bene o un male? Cioè, ti dà un po' di... ma non è né un bene né un male. Io continuo a sentir dire questo genere di discorsi, onestamente mi fanno venire tanta rabbia e tanta... Tu dici non importa, bisogna giocare ogni partita per vincere, cioè, no, così allora finiamo il campionato, cioè, oggi abbiamo tre retrocesse, cioè, non ha nessun senso, non c'è nessuno, io mi rifiuto di pensare che ci sia qualcuno che ragiona in questo modo. Chiudo con questa battuta, meglio l'oltre po' che Acapulco. Va bene, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in relazione, ragazzi, appuntamento con tutti i convocati domani alle 2, ciao!